Intimità di Saramago. Nel cuore della cava più segreta, nell'intimo del frutto più distante, nel vibrare della nota più discreta, nel nicchio più ritorto e risuonante, nello strato più denso di vernice, nella vena che il corpo più ci sonda, nel verbo che mimetizza più ci dice, nella radice che più scende, più nasconde, nel silenzio più denso in questa pausa, in cui la vita è già perennità. Io cerco la tua mano, scopro perché. Spero e dispero, in fondo, intimità.